Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Mio padre era provvisto di una certa istruzione, per merito della maestrina, la sua madre ragazza, e possedeva, in gran parte ereditati da lei, dei libri, fra i quali alcuni anche in italiano. A questa piccola biblioteca di famiglia si aggiungevano, nella casa dei Guaglioni, numerosi altri volumi, lasciati là da un giovane studente di lettere che era stato ospite per molte estati di Romeo l'Amalfitano, senza contare poi diversi romanzi adatti al gusto giovanile, polizieschi, di avventure, di varia provenienza. E così io potevo disporre di una biblioteca rispettabile, pure se composta di volumi vecchi e squinternati. Fra i molti insegnamenti, poi, che ricevevo dalle mie letture, spontaneamente io sceglievo i più affascinanti, e cioè quegli insegnamenti che rispondevano meglio al mio sentimento naturale della vita. Con essi, e in più con le prime certezze che mi aveva già ispirato la persona di mio padre, si formò dunque nella mia coscienza o fantasia una specie di codice della verità assoluta, le cui leggi più importanti si potrebbero elencare così. Primo, l'autorità del padre è sacra. Secondo, la vera grandezza virile consiste nel coraggio dell'azione, nel disprezzo del pericolo e nel valore mostrato in combattimento. Terzo, la peggiore bassezza è il tradimento. Se poi si tradisce il proprio padre o il proprio capo o un amico, si arriva all'infimo della viltà. Quarto, nessun concittadino vivente dell'isola di Procida è degno di William Gerace e di suo figlio Arturo. Per un Gerace, dar confidenza a un concittadino significherebbe degradarsi. Quinto, nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre. Sesto, le prove più evidenti e tutte le esperienze umane dimostrerebbero che Dio non esiste. Queste mie certezze di ragazzino sono state per lungo tempo non soltanto il mio onore e il mio amore, ma la sostanza della sola realtà possibile per me. In quegli anni, più che disonorante, mi sarebbe parso impossibile vivere fuori dalle mie grandi certezze. Però di esse io, nella mancanza di un interlocutore adatto con cui discorrere in confidenza, non avevo mai fatto parola con nessuno al mondo. Il mio codice era rimasto un geloso segreto mio. E questa, certo, per l'aristocrazia e l'orgoglio era una qualità, ma era anche una qualità difficile. Un'altra qualità difficile del mio codice era una reticenza. Nessuna delle mie leggi, voglio dire, nominava la cosa da me più odiata, e cioè la morte. Tale reticenza era da parte mia un segno di eleganza e disprezzo verso questa cosa odiata, alla quale non rimaneva che insinuarsi fra le parole delle mie leggi in modo subdolo, come un paria o una spia. Io, nella mia felicità naturale, scansavo tutti i miei pensieri dalla morte, come da un'impossibile figura di vizi orrendi, ibrida, astrusa, piena di male e di vergogna. Ma nello stesso tempo, quanto più odiavo la morte, tanto più mi divertivo e mi esaltavo a fare prove di audacia. Anzi, nessun gioco mi piaceva abbastanza se non c'era il fascino del rischio. E così ero cresciuto in questa contraddizione di amare la prudenza odiando la morte. Può darsi tuttavia che non fosse una contraddizione. Sol però tu, alchemia donosa, sol però tu, patria mia durata, sol però tu, io canto ancora la canzone del mio cor. Per tu le tue stelle che gli umeri donano alle tue muraglie, per la tua gente che è la mia sveglia, cara Dio, io canto. respir de pror t'aveu remesió. Una cançó que és d'amor i el cor meu patiu amb un sospir de pror t'aveu remesió. Cant i volgaria plorar de cosa tu escoltis la veu del meu cor, tu l'escoltaràs. I libri che mi piacevano di più erano quelli che celebravano, con esempi reali o fantastici, il mio ideale di grandezza umana di cui riconoscevo in mio padre l'incarnazione vivente. Se io fossi stato un pittore e avessi dovuto illustrare poemi epici, credo che nelle vesti dei loro eroi principali avrei sempre dipinto il ritratto di mio padre, mille volte. E per cominciare l'opera avrei dovuto sciogliere sulla mia tavolozza una quantità di polvere d'oro in modo da colorare degnamente le chiome di quei protagonisti. Come le ragazzine si figurano le fate bionde, le sante bionde, le regine bionde, io mi figuravo i grandi capitani e guerrieri tutti biondi e somiglianti come fratelli a mio padre. Se in un libro un eroe che mi piaceva risultava dalle descrizioni un tipo moro, io preferivo credere a uno sbaglio dello storico. Ma se la descrizione era documentata e proprio indubbia, quell'eroe mi piaceva meno e non poteva essere più il mio campione ideale. Quando Wilhelm Gerace si rimetteva in viaggio, ero convinta che partisse verso azioni avventurose ed eroiche. Gli avrei creduto senz'altro se mi avesse raccontato che muoveva alla conquista della Persia come Alessandro il Macedone, o che aveva ad attenderlo compagnie di prodi al suo comando. Che era uno sgominatore di corsari o di banditi. Lui non faceva mai parola sulla sua vita fuori dell'isola, e la mia immaginazione si struggeva intorno a quell'esistenza misteriosa, affascinante, a cui, naturalmente, lui mi stimava indegno di partecipare. Il mio rispetto della sua volontà era tale che non mi permettevo, neanche in pensiero, l'intenzione di spiarlo o di seguirlo di nascosto. E non osavo neppure interrogarlo. Volevo conquistare la sua stima e magari la sua ammirazione, sperando che un giorno, finalmente, lui mi avrebbe scelto per suo compagno nei viaggi. Intanto, quando eravamo insieme, cercavo sempre l'occasione di mostrarmi valoroso e impavido ai suoi occhi. Attraversavo a piedi nudi, quasi volando sulle punte, le scogliere arroventate dal sole. Mi tuffavo nel mare dalle rocce più alte. Mi davo straordinarie acrobazie acquatiche, esercizi vistosi e turbolenti, e mi mostravo esperto in ogni sistema di nuoto, come un campione. Nuotavo sott'acqua fino a perdere il fiato e riaffiorando riportavo delle prede sottomarine, ricci, stelle di mare, conchiglie. Ma inutilmente, spiando verso di lui da lontano, io cercavo nel suo sguardo l'ammirazione o almeno l'attenzione. Sedeva a riva senza badarmi, e appena io, disinvolto, fingendomi non curante delle mie imprese, lo raggiungevo di corsa e mi gettavo sulla sabbia presso di lui, lui si levava con una mollezza capricciosa, alzava le braccia pigre e si lasciava steso sul fianco nel mare, e si allontanava nuotando lento, lento, quasi abbracciato al mare, come una sposa. Finalmente, un giorno, io credetti arrivata l'occasione di dargli la grande prova di me. Ci bagnavamo insieme e nuotando egli smarrì nel mare il suo famoso orologio anfibio, del quale andava fiero e che portava anche in acqua. Fummo assai contristati dalla perdita. Lui guardava il mare con una smorfia di rabbia e mi rispose con un'alzata di spalle quando io mi offersi di andargli a ricercare l'orologio nei fondi sottomarini. Tuttavia mi cedette la sua maschera subacquea e io partii, fremendo d'ambizione e d'onore. Lui rimase ad aspettarmi sulla riva. Esplorai tutti i fondi nel tratto che avevamo percorso prima bagnandoci e riaffiorando ogni tanto per riprendere fiato, udivo i suoi fischi di richiamo. Da principio lo lasciai senza risposta, perché mi vergognavo di non potergli annunciare una vittoria. Ma infine gli risposi dall'alto di uno scoglio con un lungo fischio. Mi guardò in silenzio, senza nessun cenno. E io, a riguardare la sua persona dorata dall'estate, decisi. O tornare da lui con l'orologio, o morire. Mi riagganciai la maschera e ripresi la mia esplorazione. Ormai ritrovare l'orologio non significava soltanto la riconquista di un tesoro, non era più una questione d'onore soltanto. Quella ricerca aveva preso per me uno strano senso fatale e il suo termine quasi un traguardo della mia sorte. Ma le mie ricerche rimanevano inutili. Estenuato mi tolsi la maschera e mi aggrappai con le mani a uno scoglio per riposarmi. Lo scoglio mi nascondeva la vista della riva e nascondeva, mio padre, la scena della mia sconfitta. Me. mentre aggrappato allo scoglio mi bilanciavo tristemente sull'acqua. A un movimento che feci intravidi uno scintillio metallico al sole. Puntando le due mani saltai sullo scoglio e scopersi l'orologio smarrito che scintillava in una cavità asciutta della roccia. Era intatto e accostandomelo all'orecchio udì il suo ticchettio. Lo rinchiusi nel pugno e con la maschera appesa al collo in pochi secondi raggiunsi la spiaggia. Gli occhi di mio padre si illuminarono al vedermi arrivare vittorioso. «L'hai trovato!» esclamò quasi incredulo. E in atto di possesso e d'affermazione di un diritto mi strappò dalle mani l'orologio come fosse una preda che io potessi contendergli. Se lo accostò all'orecchio e lo riguardò con soddisfazione. «Era là, su quello scoglio là!» Io gridai ancora ansimante. Ero fuori di me. Avrei voluto saltare, ballare, ma fieramente mi contenevo per non mostrare che davo troppa importanza alla mia impresa. Mio padre guardò verso lo scoglio corrugando i sopraccigli sovrappensiero. «Ah!» disse dopo un poco. «Ora me ne ricordo. Me lo son tolto mentre cercavamo i frutti di mare. Poi tu m'hai chiamato per mostrarmi un riccio di mare che avevi preso e me ne hai fatto scurdà. Se non facevi tanto il guappo, tu, col tuo riccio di mare, io non me ne scordavo.» «Perduto!» soggiunse quindi alzando le spalle in tono sarcastico. «Lo sapevo io che non si può perdere. Ha una chiusura sicurissima, di garanzia.» E con attenzione compiaciuta si riagganciò al polso il suo orologio. Dunque, la sorte aveva scherzato e la mia azione perdeva quasi ogni splendore. La delusione, montando come la febbre, mi fece tremare i muscoli del viso e bruciare gli occhi. Pensai, se piango sono disonorato. E per difendermi con la violenza dalla mia debolezza, mi sfilai rabbiosamente dal collo la maschera, che non era servita a nulla, e rabbiosamente la resi a mio padre. Mio padre, nel riprenderla, mi gettò un'occhiata arrogante come per dire «Ehi, ragazzino!» E io, non potendo più riguardarlo dopo questo sgarbo che gli avevo fatto, volli fuggire via. Ma allora lui, prontamente, con l'aria di giocare, per frenarmi appoggiò forte il suo piede nudo sul mio piede nudo e vidi il suo volto piegarsi su di me sorridendo con un'espressione favolosa che per un istante lo fece rassomigliare a una capra. Mi mise sotto gli occhi il polso con l'orologio e duramente mi disse «La sai la marca di questo orologio? Leggila, è stampata sul quadrante.» Sul quadrante, a caratteri quasi impercettibili, c'era stampata la parola «Amicus». «È una parola latina», spiegò mio padre. «Sai che cosa vuol dire?» «Amico!» risposi abbastanza soddisfatto della mia prontezza. «Amico!» egli ripeté. «E questo orologio con questo nome ha un significato di grande importanza, una importanza di vita e di morte. Su, indovina!» Sorrisi, figurandomi per un momento che mio padre volesse con quel simbolo dell'orologio proclamare la nostra amicizia per la vita e per la morte. «Non lo indovini, eh?» egli esclamò con una lieve smorfia di sprezzo. «Vuoi saperlo? Sappi che questo orologio è un regalo che m'ha fatto un amico mio, forse il più caro amico che ho. Sai la frase «due corpi è un'anima»? Una volta, scherzando con lui, io per disgrazia caddi ferendomi il ginocchio su certi vetri. E lui, da se stesso, con un pugnale algerino che gli avevo regalato io, si fece una ferita al ginocchio, nello stesso punto. Regalandomi l'orologio mi ha detto «Qua, dentro questo orologio, io ci ho rinchiuso il mio cuore. Tieni, ti do il mio cuore. Dovunque tu sia, vicino o lontano da me, il giorno che questo orologio cesserà di battere, anche il mio cuore avrà cessato di battere.» Era un caso insolito che mio padre mi facesse un discorso così lungo e confidenziale. Il nome del suo grande amico, però, non me lo disse, e subito nella mia mente s'accese un nome. Romeo! Romeo Boote, difatti, era il solo amico di mio padre del quale io avessi notizia. Ma era morto, e quindi era di un altro che mio padre parlava oggi. Quest'altro, che nel mio pensiero prese nome Pugnale Algerino, viveva là, in quei gloriosi orienti a cui mio padre sempre ritornava. Il favorito. Per un momento io lo intravidi, abbandonato in chissà quali stanze magnifiche da tragedia, che aspettava mio padre, con un volto stregato, semitico e un vuoto al posto del cuore. Quel giorno mio padre partiva. Ogni volta che partiva, egli metteva nella valigia l'intero suo corredo, giacché non si poteva mai prevedere quanto tempo sarebbe lontano. Poteva ritornare entro 2 o 3 giorni, come poteva rimanere assente per mesi, fino all'inverno e dopo. Quando gli vidi chiudere la valigia, d'un tratto io mi sentii turbinare il cuore per una risoluzione inaspettata e gli dissi: «Ma non potrei partire con te?» Non mi ero preparato a fargli oggi questa domanda e si vide subito che lui non la prendeva neppure in considerazione. Il suo sguardo si adombrò appena e i suoi labbri ebbero una smorfia quasi impercettibile, come se pensasse ad altro. «Con me», replicò poi squadrandomi. «A fare che? Sei un guaglioncello, aspetta d'essere cresciuto per partire con me». Rapidamente girò una corda intorno alla valigia e l'assicurò con un nodo vigoroso e abile da marinaio. Poi, con me ma con la tella al suo seguito, si affrettò giù a basso. Così egli lasciava la casa dei Guaglioni a passo veloce, tenendo la valigia afferrata per un capo della corda, le guance animate, gli occhi incupiti dall'impazienza. Ormai già per me fiabesco, irraggiungibile, come se Gaucho attraversasse la pampa argentina con un toro preso al laccio, oppure capitano delle armate greche trascinasse volando sul cocchio per il campo di Troia la spoglia del troiano vinto, o come se domatore di cavalli nella steppa corresse a fianco del suo puledro pronto a saltargli in groppa nella corsa. E pensare che aveva ancora sulla pelle il sale del mare Procidano, dove s'era bagnato con me la mattina. Aspetta d'essere cresciuto per partire con me. Ebbi un pensiero di rivolta contro l'assolutezza della vita, che mi condannava a percorrere una Siberia sterminata di giorni e di notti prima di togliermi a questa amarezza, d'essere un ragazzino. Dall'impazienza in quel momento mi sarei perfino assoggettato a un lunghissimo letargo che mi facesse attraversare senza accorgermene le mie età inferiori per ritrovarmi d'un tratto uomo pari a mio padre, pari a mio padre. Purtroppo io, pensai guardandolo, anche quando mi farò uomo, non potrò mai essere pari a lui. Non avrò mai i capelli biondi né gli occhi viola celesti, né sarò mai così bello. Il piroscafo che veniva da Ischia e che doveva portare mio padre a Napoli non era ancora entrato nel porto. C'erano alcuni minuti da aspettare. Mio padre e io ci sedemmo vicini sulla valigia. Emma Collatella, affannata per le sue gare di corsa, si sdraiò ai nostri piedi. Essa pareva convinta che quella sosta sul molo significasse per la nostra famiglia il termine del viaggio e che, oramai giunti a destinazione, stabiliti, potessimo riposarci tutti e tre insieme quanto ci pareva, senza doverci separare mai. Però, quando il piroscafo ebbe gettato la passerella e mio padre e io ci alzammo, anch'essa si alzò pronta, agitando la coda, senza mostrare nessuno stupore. Quando poi mio padre fu separato da noi due, sul piroscafo che si staccava dal molo, essa abbaiò forte, con l'aria di accusare il piroscafo, ma non fece drammi. A lei non doleva molto che mio padre partisse, giacché per lei ero io il padrone. Se fossi partito io, di sicuro si sarebbe buttata in mare, tentando di raggiungere il piroscafo a nuoto, e poi ritornata a terra disperata, sarebbe rimasta sul molo a piangere e a chiamarmi, fino alla morte. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.